Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi apriamo con una provocazione che arriva dal ministro della coesione territoriale Fabrizio Barca. Incontrando all'Aquila gli studenti ha dichiarato: io ho 3 figli, 2 se ne sono andati dall'Italia. Non è che ne sia felicissimo, ma finché non costruiamo un'Italia migliore in cui non serva l'aiuto del padre per trovare il posto, fino ad allora stanno bene lì, in Sud America e in Inghilterra. Parole forti, parole che fotografano la difficile realtà di questo paese. E voi cosa ne pensate? È una resa? O un invito al cambiamento, ad attuare una rivoluzione culturale, aprendoci al futuro, alla meritocrazia, ai giovani? Scrivete le vostre riflessioni a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul blog online. Veniamo alla puntata di oggi, Chuck si gira, trasmissione speciale quasi interamente dedicata alla comunità di giovani registi e filmmakers che negli Stati Uniti hanno trovato occasioni e opportunità di carriera insperabili in Italia. Il problema è sempre lo stesso: se sei giovane, indipendente e talentuoso, hai più probabilità di farcela oltreoceano che nella nostra ingessatissima penisola. Sono la terra delle possibilità perché ci sono molte più produzioni. Nello stesso tempo queste possibilità bisogna avere la capacità di coglierle al volo e di mantenerle. L'Italia ancora non è la terra delle possibilità, potrebbe esserlo. Giuseppe De Angelis, 32 anni, un filmmaker di stanza a New York. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. Nasce il primo social network dei cervelli in fuga, appuntamento martedì scorso alla Farnesina per i protagonisti del mondo scientifico italiano all'estero che hanno tenuto a battesimo il progetto di una piattaforma per consentire ai talenti espatriati di restare in contatto in rete, contribuendo alla rinascita economica del paese. A realizzare il network è Gioacchino Lavecchia, 41 anni, lo ha intervistato Anna Marino. L'iniziativa è rivolta a tutti quelli che sono i cervelli, sia dal punto di vista dei ricercatori, sia imprenditori che sono in giro per il mondo, la possibilità quindi di mettere a fattor comune conoscenze, informazioni, risorse e farlo diventare una vera e propria community in maniera tale che sia facile accedere a quello che serve indipendentemente da dove si trova. L'ambasciatore Maurizio Melani, direttore generale per la promozione del sistema paese alla Farnesina, ci spiega lo scopo del progetto. Valorizzare i talenti italiani che sono all'estero in un contesto che possa consentire di mettere le loro esperienze e le loro attività al servizio della crescita del paese. Quindi essenzialmente si tratta di fare in modo che queste uscite dal nostro paese non siano delle perdite, ma siano anzi degli elementi da poter inserire in un contesto complessivo di partecipazione di attività importanti che loro svolgono all'estero, nell'ambito anche delle iniziative di ricerca che si svolgono in Italia. Ci si continua a dimenticare dei giovani. Per Carlo Rubbia è questa la grande lacuna del programma di rilancio della ricerca italiana. Non si parla di rilanciare una struttura quando i giovani continuano ad andare all'estero, ha detto il premio Nobel. Investire in ricerca, partnership tra pubblico e privato, meno burocrazia per i ricercatori stranieri che vogliono lavorare in Italia. Queste alcune delle proposte contenute nel documento messo a punto dai ricercatori italiani all'estero riunitisi all'Aspen. Per il 66% dei giovani meridionali il lavoro si trova solo grazie alle raccomandazioni, per il 90% la crisi accrescerà il lavoro nero, lo afferma un'indagine ACLI. I giovani del sud ritengono che la ricerca di impiego vada a buon fine solo se coadiuvata da ricorso ad amicizie e raccomandazioni personali, indipendentemente dalle competenze. Ma c'è di peggio: i giovani non vengono giudicati per il merito neppure nel mondo del lavoro, secondo oltre la metà del campione, condizioni che stimolano la fuga all'estero, il 79% ritiene necessario trasferirsi. E un'indagine Euromedia Research rivela il 37,6% degli studenti calabresi associa al futuro un'idea di incertezza, il 43% dopo il diploma si vede in un'altra città italiana, quasi 1 su 10 all'estero. Non va meglio al nord, il 13,5% degli under 30 in Emilia-Romagna non ha un posto di lavoro, il 5,6% non studia né lavora, i giovani con contratti atipici sono 120.000, la regione ha varato un piano straordinario con un investimento da 46 milioni. Sempre a livello regionale, quali sono le regioni migliori per i giovani in Italia? Per Data Giovani, le Marche, seguite da Valle d'Aosta ed Umbria, tra i parametri considerati mercato del lavoro, imprenditoria, istruzione. Finalmente si muove l'Europa, la Commissione ha presentato un'agenda per la creazione di un mercato unico dell'impiego, tra i pilastri la creazione di posti di impiego per i giovani, la promozione di un salario minimo e infine il rafforzamento del coordinamento. Bruxelles intende creare un vero e proprio mercato unico, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità e facilitando il riconoscimento delle competenze. Sempre Bruxelles ha avviato la campagna Women Business, che intende incoraggiare la creazione di un maggior numero di tirocini per promuovere l'occupabilità dei giovani. E in programma venerdì 27 e sabato 28 a Birmingham la National Engineering and Construction Recruitment Exhibition, fiera che darà l'opportunità agli ingegneri di incontrare i principali datori di lavoro del Regno Unito. Info su engineerjobs.co.uk. Un motivo per restare. o tornare. Entro giugno il governo metterà a punto Digitalia, un pacchetto di spinta alla digitalizzazione delle imprese e del sistema paese. Prevista la nascita di una task force governativa delle start-up per incoraggiare l'avvio di imprese innovative. Enorme il lavoro da fare per Bruxelles, il ritardo italiano nella penetrazione della banda larga rispetto a Francia o Germania è di 10 punti, con un effetto negativo sul PIL di oltre l'1% per la commissaria Nili Kroes. Nel settore ICT serviranno entro 3 anni 700.000 professionisti, una grande opportunità per l'Italia, dove la quota di laureati in scienze informatiche è un terzo rispetto agli altri grandi paesi occidentali. Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Communications Manager alla Alliance for Beverage Cartons and Environment a Bruxelles, scadenza per CV 27 aprile, info su beveragecarton.eu. Human Rights Watch recluta un ricercatore dedicato alla Repubblica Democratica del Congo, sede di lavoro Goma, scadenza per CV 30 aprile, info a africajobs@hrv.org. E infine un group leader nel gruppo di ricerca sul DNA all'Università di Oxford, scadenza per CV 30 aprile, info su recruit.ox.ac.uk. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta a sorvolare nuovamente l'Oceano Atlantico, rotta verso la Grande Mela. Nome: Giuseppe. Cognome: De Angelis. Età: 32. Città di origine: Gallarate. Studi: diploma di montatore cine televisivo alla Civica Scuola di Cinema di Milano. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? Los Angeles. Perché? Per lavorare a Hollywood. Quale lavoro svolge attualmente? Produco, monto film indipendenti e insegno montaggio cinematografico. Dove? New York. Tornerai? Tornerò di sicuro, ma resterò in Italia solo se troverò le stesse opportunità che ho trovato qui. Florence in Love, cortometraggio che hai co-realizzato a Firenze, Giuseppe, la scorsa estate, per introdurre appunto la tua storia. Negli Stati Uniti le opportunità sono numerose, ma anche la competizione è più aggressiva. Una certezza è che se sei in gamba ce la fai e i professionisti te lo riconoscono. Chiamiamola pure meritocrazia, abbinata a una selezione naturale attraverso la quale chi resta è chi ha le qualità, perché non molla di fronte alle sfide che tutti i giorni si devono affrontare. Questo, Giuseppe, è il sogno americano in versione terzo millennio. E in Italia, se sei in gamba, ce la fai oppure no? In Italia, se sei in gamba, fai molto più fatica e non hai sempre la certezza di farcela. Essere bravi purtroppo molto spesso non è sufficiente, devi avere le giuste connessioni, ma anche qui devi crearti le giuste connessioni, che però sono create in maniera molto diversa sulla base professionale e non sulla base di amicizie o di parentela. Differenza fondamentale. Filmmaking, il processo di realizzazione di un film secondo l'enciclopedia online Wikipedia. Tu, filmmaker, hai deciso di diventarlo a soli 12 anni, perché? Beh, a 12 anni ero grande abbastanza per andare al cinema da solo e quindi andai al cinema a vedere un film e fu amore a prima vista. A quel punto orienti la tua carriera in una direzione appunto ben precisa: diploma di montatore cine e televisivo a Milano, cui fanno seguito diversi anni di lavoro in Italia, assistente al montaggio per film e produzioni TV, fiction, cartoni animati, documentari. Quali erano le condizioni di lavoro in Italia? Soddisfacenti o no? Professionale, da un punto di vista personale, sono state soddisfacenti, anche perché quando inizi a lavorare impari comunque, continui ad imparare. Dal punto di vista, diciamo, economico e contrattuale, assolutamente non positive sono le condizioni di l'inquadramento lavorativo, era sempre tra i più bassi, le paghe erano molto basse, ho dovuto addirittura accettare di lavorare per diversi mesi senza nemmeno percepire lo stipendio. Nel 2002 la crisi post 11 settembre ti lascia a piedi, per cui passi a lavorare per due case di post produzione prima di approdare a Sky Italia come montatore di programmi TV e documentari, ma non era quella la tua ambizione. Allora, Giuseppe, quanto in Italia occorre ridimensionarsi, soprattutto se sei giovane? Ma purtroppo in Italia sembra che ridimensionare i propri sogni, ridimensionarsi sia abbastanza inevitabile. Io posso dire che molti degli amici che ho avuto nella scuola di cinema a un certo punto hanno abbandonato un po' il loro sogno, si sono diretti verso altri tipi di lavori. Cambio paese, cambio continente, cerco di nascondere. Nella 2005 la svolta della vita, alla base come sempre il coraggio di cambiare. Cambi paese, cambi continente, perché vinci una borsa di studio e voli a Los Angeles per frequentare corsi intensivi della New York Film Academy. Qual è stato l'impatto con la realtà americana in termini assolutamente professionali? Ma l'impatto fu assolutamente straordinario, prima di tutto perché ero nella Mecca del cinema, chiunque con cui parlavo erano persone che erano legate in qualche modo al mondo del cinema, al mondo dell'entertainment, e soprattutto il fatto che venivi considerato seriamente, per cui se dicevi che eri un filmmaker ti prendevano sul serio e consideravano le idee del tuo progetto. E non ti dicevano "sei un ragazzino, cosa vuoi fare?" No, assolutamente nessuno è mai venuto a dirmi "sei troppo giovane per fare questo", anzi erano disponibili assolutamente ad aiutarti, ad appoggiarti nei tuoi progetti e in qualche modo a sostenerti, a venire a vedere i tuoi film alle proiezioni o a darti una mano anche dal punto di vista logistico se ne avevi bisogno. Avere persone addirittura che accettavano di lavorare con te gratis pur di poter far parte del tuo progetto. Pazzesco. Quindi questa è stata una cosa assolutamente nuova per me. Questa esperienza poi contribuisce a riportarti alla tua vocazione originale e a Los Angeles cominci a lavorare girando alcuni cortometraggi e partecipando alla produzione di un lungometraggio per la Warner Brothers. Per preparare questa puntata abbiamo interpellato un altro filmmaker che lavora tra Italia e Stati Uniti, Giorgio, il quale ci ha scritto: negli Stati Uniti il solo numero di produzioni indipendenti supera di gran lunga il numero dei film prodotti in Italia complessivamente. È piuttosto evidente che le opportunità di lavoro sono più numerose e anche i costi di realizzazione e gli stipendi più alti. Condividi? Condivido, sì. In Italia in America le produzioni sono molto di più, per cui c'è molta più possibilità, ma come abbiamo già anticipato anche molta più competizione. Il problema in Italia i film si producono sono molto pochi e ci sono già registi e attori che hanno già fatto, si sono già creati un nome. Chiaramente è molto più difficile per un giovane farsi spazio. Ecco che qui, con la possibilità che ci sono, un giovane ha molte più possibilità e si butta molto più facilmente, nello stesso tempo se ha le capacità e le qualità in qualche modo riesce a farsi vedere. Dopo l'esperienza californiana resta in bilico tra Italia e Stati Uniti finché non vieni chiamato a insegnare montaggio cinematografico alla New York Film Academy. Qui anticipiamo l'ingresso dell'ospite della trasmissione, Diana Santi, direttrice dell'Overseas Program della New York Film Academy. Buon pomeriggio. Ciao, buongiorno. Cos'è la New York Film Academy in breve? La New York Film Academy è una scuola pratica di cinema e recitazione cinematografica, quindi insegniamo tutte materie tipo regia, direzione della fotografia, fotografia, montaggio, tutto ciò che è tecnico e tutto ciò che è artistico, quindi sceneggiatura, recitazione per il cinema, per musical. Vogliamo dire quanti studenti italiani si iscrivono ai vostri corsi e soprattutto cosa li spinge a varcare l'Oceano Atlantico? Tutti gli anni nei vari corsi si iscrivono circa 200-250 ragazzi e forse gli spinge la voglia di confrontarsi con la realtà americana, venire a vedere cosa c'è dall'altra parte dell'oceano. Torniamo a te, Giuseppe. Dal 2009 vivi e lavori stabilmente a New York, dove insegni alla Film Academy, lavori come montatore e produttore di documentari, di un lungometraggio cinematografico narrativo più il cortometraggio girato a Firenze, Florence in Love, di cui abbiamo appena parlato. Anche sulla base di questo salto qualitativo che hai compiuto, è un luogo comune affermare che gli Stati Uniti sono la terra delle possibilità. E l'Italia? Gli Stati Uniti sono la terra delle possibilità, come abbiamo già detto, perché ci sono molte più produzioni. Nello stesso tempo queste possibilità bisogna avere la capacità di coglierle al volo e di mantenerle. L'Italia ancora non è la terra delle possibilità, potrebbe esserlo. È quello su cui vogliamo lavorare, soprattutto nel futuro, è poter creare più possibilità, soprattutto per i giovani, e in qualche modo creare una sorta di gruppo di filmmakers che sia attivo quanto quello che si trova qui. Diana, c'è anche il fattore competizione. A Giovani Talenti @radio24.it è scritto: in questa giungla senza regole che la meritocrazia americana, chi vale ha la fortuna di essere notato ed è bravo trova lavoro con molta soddisfazione. Allora, Diana, meglio un piccolo acquario come quello italiano o l'oceano americano con regole del merito? Sicuramente l'oceano, per una questione proprio di spazio. Giuseppe? Sicuramente l'oceano, e chiaramente soprattutto perché c'è meritocrazia. Giuseppe, come vedi l'ambiente cinematografico italiano quando ti capita di tornare qui? Io sempre in qualche modo ho avuto l'idea, fin da quando ho fatto la scuola di cinema, che un po' l'ambiente cinematografico è ancora un po' chiuso, e in qualche modo ho sempre la stessa impressione, perché quando torno in Italia sento sempre gli stessi nomi, vedo sempre le stesse facce. Quando incontro e parlo con i miei amici che girano cortometraggi, e si tratta sempre di occasioni abbastanza limitate, quindi credo che sia ancora un'industria, perché quello è quello che è, ed è questa anche una delle grandi differenze, deve essere considerata un po' un'industria che deve in qualche modo espandersi, che deve allargarsi. Progetti per il futuro, Giuseppe? Continuare a produrre film, documentari il più possibile, e sicuramente cercare di portare più produzioni possibile in Italia. Domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Sicuramente ancora l'Italia la vedo un po' come un paese che fatica a sganciarsi da una mentalità, da un modo di vivere che non sta al passo col tempi. Diciamo che osserviamo poco quello che di buono viene fatto all'estero e resistiamo ad usarlo come modello. Abbiamo la creatività, abbiamo le risorse, ma non vengono sfruttate al massimo, perché in qualche modo gli interessi privati prevalgono, e soprattutto in tempi di crisi la cultura è sempre quella che ne soffre di più. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Giuseppe De Angelis, 32enne filmmaker di stanza a New York. Giuseppe è giunto nella Grande Mela dopo un diploma come montatore cine-televisivo a Milano, una serie di lavori per programmi televisivi e documentari che però non lo soddisfacevano fino alla svolta della vita. Una borsa di studio lo proietta a Los Angeles per frequentare workshops intensivi. L'impatto con gli Stati Uniti e gli Universal Studios risultano decisivi per lui come per altri giovani colleghi. Attualmente è produttore di lungometraggi lungometraggi, cortometraggi e documentari, nonché docente alla Film Academy. Ci raggiunge nuovamente in linea Diana Santi, direttrice dell'Overseas Program della New York Film Academy. Diana, raccontiamo anche come nasce questa puntata. A fine settembre dell'anno scorso esce sul quotidiano La Stampa un articolo che parla di voi. L'articolo racconta alcune delle vostre storie e poi aggiunge: sono storie diverse in tutto tranne nel fatto di descrivere la possibilità per un giovane italiano di essere protagonista del mondo del cinema su un mercato competitivo e spietato come quello americano. Hanno tentato tutti di farsi largo nel paese d'origine con il risultato di sommare amarezze e disappunti. Quanto è presente, Diana, questa dimensione di fuga dall'Italia nei racconti che ascolti? Guarda, io cerco sempre di rimanere molto neutrale quando si parla di Italia verso America. Purtroppo però la sensazione della fuga dall'Italia da parte di questi ragazzi è abbastanza evidente nei loro racconti. E quali sono questi principali ostacoli che impediscono di crescere a questi nostri giovani filmmakers in Italia? Senti, secondo me in Italia c'è un po' un problema di etica del lavoro. Spesso i ragazzi vengono presi a lavorare senza essere pagati, con grandi promesse, senza mai la realizzazione. Io credo che dovremmo pensarla in questi termini: i giovani sono il motore del mondo, perché non si stancano mai di lavorare, hanno voglia di fare e soprattutto non hanno paura di sbagliare, e andrebbero incentivati. Invece i nostri sono un po' fiacchi, non vedono prospettive. Purtroppo. È curioso osservare, Diana, che anche nel settore cinematografico avviene quello che a livello macro succede con gli investimenti esteri. Tu affermi che l'Italia potrebbe essere un paradiso per il cinema americano, ma come avete avuto occasione voi stessi di sperimentare con il cortometraggio Florence in Love, girare in Italia può rivelarsi un incubo per uno straniero. Perché? L'ha detto anche Monti, quindi non sono da sola. Il problema italiano è senz'altro la burocrazia. L'esempio del nostro Florence in Love è abbastanza palese. Il comune di Firenze, nel nome di Lucia De Siervo, si è subito attivato per aiutarci, sposare il nostro progetto. Sono veramente stati eccezionali. Gli uffici un po' meno, perché è difficile parlarci, difficile contattarli, ricevere un'email, hanno orari molto ridotti, insomma bisogna stargli molto dietro, capito? Quindi se uno arriva dagli Stati Uniti per girare non è facile, hanno bisogno di qualcuno di italiano che li gestisca, se no non ce la fanno. Torniamo alla New York Film Academy: quanti dei vostri studenti ce la fanno negli Stati Uniti e quanti, dopo avercela fatta, provano a tornare in Italia per impiantare qui qualcosa di nuovo, di innovativo, di giovane? A occhio e croce il 10% ce la fa. È spietato, eh? Il fenomeno della diaspora però non è ancora cominciato, secondo me è ancora un po' troppo presto. Io sono sicura che alla fine torneremo tutti, perché l'Italia comunque è un grande paese, si vive bene il lifestyle. L'unica cosa, come diceva Giuseppe, bisogna che l'Italia cambi un po' e ci dia delle possibilità. E noi vi aspettiamo, noi speriamo che voi portiate quei germi di meritocrazia, di innovazione di cui abbiamo disperatamente bisogno qui. Un'ultima cosa, ci racconti in brevissimo qualche storia di successo di giovani filmmakers che ce l'hanno fatta oltreoceano. Qual è stato il segreto? Ti faccio un paio di nomi, tipo Andrea Fumagalli, detto Fuma, Francesco Panzieri, Alex Oldini, tutti i ragazzi che lavorano in case di produzione, di post-produzione. Alex ha già girato il suo primo lungometraggio. Il segreto del loro successo, secondo me, è che lavorano tanto, non si stancano mai, sono bravi e soprattutto non si lamentano. In America, se ti lamenti di continuo, sei fuori. La gente non vuole lavorare con te. Grazie a Diana Santi, in bocca al lupo. E domanda di rito per Giuseppe De Angelis: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie di uscita, a un espatrio? Imparare la lingua. Imparare l'inglese è fondamentale per qualsiasi esperienza tu voglia fare all'estero. Se non si hanno già delle connessioni dal punto di vista lavorativo, si può iniziare a provare a frequentare un corso, un workshop che ti dà la possibilità in qualche modo di introdurti nel nuovo paese, di conoscerlo un po' di più e di iniziare a creare delle conoscenze che poi ti possono aiutare anche da un punto di vista lavorativo. E sicuramente bisogna rimboccarsi le maniche, essere pronti a fare dei sacrifici e a dare il massimo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi parliamo di un libro uscito nelle ultime settimane che spiega come non avere problemi a livello organizzativo quando si decide di espatriare. Una guida pratica, insomma, per lasciare l'Italia, anche con famiglia al seguito. Luisella Zappetto, autrice di Vivere Felice all'Estero. Questo libro nasce dal fatto che io ho sposato una persona che per il suo lavoro gira il mondo e quindi sapevo che lui avrebbe viaggiato e si è posto anche per me, diciamo così, il problema o il dilemma di che cosa fare. 45.000 italiani, in prevalenza laureati, lasciano ogni anno l'Italia per andare a vivere e lavorare all'estero. Quanto è diversa questa nuova emigrazione professionale? Quelli che partono oggi sono tecnici, sono medici, ingegneri, fisici, sono ricercatori, sono persone che fuggono dall'Italia perché purtroppo sappiamo che c'è questa spinta ad andare via, ma c'è anche tanta gente che proprio per il tipo di lavoro che svolge va all'estero. Perché è lì la sede naturale del suo lavoro. In estrema sintesi, ma i 2-3 consigli imprescindibili per chi si prepara a espatriare? Intanto un'autoanalisi iniziale, perché la vita all'estero non è detto che calzi bene a tutti.